E allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa è Entropia Massima, trasmissione del lunedì alle 8. E questa sera parliamo di clima, siamo in compagnia di Alberto che ha preparato una puntata specifica su economia e ambiente. In apertura di trasmissione vogliamo salutare in particolare tutti coloro che ci ascoltano da dietro le sbarre o privati della propria libertà personale, a cui va il nostro abbraccio. E direi di passare la parola ad Alberto per entrare nel vivo della puntata di oggi. Bene, io penso oggi vorrei provare a fare una specie di fare il punto della situazione del clima, perché si continua a vedere che specialmente in questa fase preelettorale nessuno se ne occupa, nel senso a livello politico mi sembra c'è un'assenza quasi totale di attenzione a questo problema, e dall'altra parte gli eventi estremi, cioè questi fenomeni un tempo con certe dimensioni, continuano a susseguirsi, e sarebbe molto importante che ognuno di noi diventasse profondamente cosciente del fatto che ognuno di questi eventi è la conferma dei fenomeni di riscaldamento globale e soprattutto degli squilibri planetari. Quindi non sono degli eventi casuali, oppure che non si muovono ognuno secondo una sua logica, sono conferme, cioè ogni volta sottolineano e fanno comprendere ancora meglio che cosa sta succedendo. E quindi dovremmo, insomma, è un po' un tentativo di fare il punto proprio per far cogliere questo passaggio. Allora, il primo serie di eventi che volevo ricordare sono gli incendi. Nel senso che è un po' strano, nel senso che ne abbiamo parlato durante l'estate, erano strettamente connessi con la siccità e il caldo, di questa ne abbiamo parlato la precedente trasmissione, no? Però nel frattempo questi incendi sono continuati, e quindi siamo agli inizi del mese di dicembre. Evidentemente il grado di siccità era molto forte, molto spinto. Le piogge che ci sono state nel frattempo non sono state sufficienti per riequilibrare i rapporti tra le acque del cielo e la salute della terra, e quindi siamo di fronte a uno di questi eventi particolarmente importanti e significativi. E parlo sia del Piemonte che della California. In Piemonte cosa è successo i primi, ancora alla fine del mese, di inizi di novembre? Ci sono stati degli incendi e soprattutto c'è stato un momento in cui c'era un deficit di acqua, cioè del 35%, cioè un terzo di meno rispetto a quella che doveva essere la media, o insomma le statistiche esistenti in materia per quella zona, per quella regione. E quindi la situazione esistente era la più grave da questo punto di vista, cioè dai residui degli effetti di caldo e scarsità di pioggia, la più grave da quando sono iniziate le rilevazioni delle acque, delle cadute delle acque, quindi agli inizi dell'Ottocento. Solo nel 1921 c'è stato un calo, però era un po' inferiore a quello che si è verificato in quest'anno. Quindi cosa è successo? Scusa, quello che si è verificato quest'anno, quindi è un calo ancora superiore del record del 1921. Del 1921. E il risultato sono stati altri 5.000 ettari che sono andati in fumo. E io mi permetto di ricordare, anche se ne abbiamo parlato a lungo la volta scorsa, che ogni volta che va a fuoco una foresta, una zona di vegetazione, noi abbiamo una doppia perdita, cioè perdiamo gli alberi ma perdiamo anche uno dei meccanismi che contengono la CO2, cioè l'anidride carbonica, perché le piante assorbono anidride carbonica. Quindi mentre noi fantastichiamo su tecnologie avanzatissime per eliminare, continuiamo a distruggere le piante, che invece sono una macchina ben oliata che da milioni di anni svolge questa funzione. Scusami, il dato sui 5.000 ettari riguarda solo il Piemonte? Solo il Piemonte. L'Italia a questo punto siamo intorno ai 140.000 ettari andati in fumo questa estate. In una sola stagione? Quest'estate e adesso, insomma. Allora, l'altra situazione che volevo ricordarvi è ancora in corso. Cioè l'8 dicembre, cioè 3 giorni fa, c'erano ancora 4 focolai ancora non sotto controllo, proprio vicini a Los Angeles. Quindi erano state evacuate 50.000 persone e 200 case erano bruciate. Quindi perché c'era stata questa, diciamo, non solo questa ripresa degli incendi, ma soprattutto la loro diffusione e in zone anche abbastanza abitate, cementate, eccetera eccetera, invece queste fiamme sono state in grado? Perché c'è stato un forte aumento dei venti. Quindi non si sono fermati quei fenomeni che abbiamo denunciato quest'estate, dei cicloni eccetera eccetera, e invece ci sono stati degli ulteriori fenomeni di venti molto forti rispetto alla stagione, e questo ha permesso, come dire, lo sviluppo e la diffusione, e soprattutto ha aumentato il grado di incontrollabilità del fuoco. Perché quando c'è un vento molto forte, le autostrade non rappresentano una barriera, le scintille superano le autostrade e si diffondono dall'altra parte, eccetera. Cioè anche, diciamo, delle strutture che sono molto diffuse in un paese come gli Stati Uniti non funzionano come barriera per il vento. Quindi, sbaglio oppure mi sono perso io magari un po' di notizie, ma non è stata data molta evidenza a questa cosa dell'8 dicembre di Los Angeles che stai raccontando? Su dei giornali c'era, e ci sono state delle foto, però come al solito, specialmente la televisione, danno la notizia, qualche immagine, e poi si passa appresso e c'è una notizia politica, una notizia di varia umanità o di cultura cosiddetta, di costume e società, e il messaggio si perde, insomma, cioè certo, non, soprattutto il collegamento tra questo accadimento e certo e tutto il resto del problema manca totalmente sempre, insomma, no? Questa è la parte più pericolosa in quest'anno. In tutta la zona sono bruciate, in tutto il paese, sono in Stati Uniti, si sono bruciati 4 milioni di ettari. È una cifra paurosa, 3.000 case bruciate, 44 vittime, eccetera. Cioè, insomma, un fenomeno mostruoso, anche se gli Stati Uniti hanno grandi estensioni, eccetera, eccetera, però evidentemente è stato un fenomeno particolarmente duro. Che cosa significa tutto ciò? Significa, questo c'è un dato statistico che è uscito negli ultimi giorni, cioè nell'anno che va da dicembre dell'anno scorso a dicembre di quest'anno, abbiamo avuto in Italia l'anno più secco, cioè con il meno acqua, dal 1802, cioè quello massimamente secco. E la media delle piogge, la riduzione delle piogge è stata dell'ordine del 30%, quella media per tutto il paese. Nei 6 mesi più caldi, quindi giugno, luglio, agosto e parte di settembre, il meno pioggia è stato più del 50%, cioè la quantità di riduzione della pioggia. Quindi noi abbiamo questo anno è stato, fate attenzione, non è stato il più caldo in assoluto, perché il 2003 è stato il più caldo. Noi siamo quest'anno con ogni probabilità, adesso dobbiamo vedere gli ultimi giorni dell'anno, con ogni probabilità saremo il secondo anno più caldo degli ultimi centinaia di anni. Ecco, questo però sicuramente è stato il più secco, cioè quello con meno caduta di pioggia nella media dei mesi caldi. Quindi i dati definitivi si hanno, diciamo, quelli del secco, 2018, siccome sì, vengono calcolati dicembre su dicembre, si hanno già, no? Quelli sul grado di siccità, insomma, di mancanza di acqua. Quello del caldo in assoluto, cioè in termini di gradi e via dicendo, è calcolato invece sull'anno complessivo. E poi all'improvviso, cioè questo lo stiamo vedendo in questi giorni, questi fenomeni di freddo improvviso, quindi voi pensate tutte le terre e tutti gli alberi, nel senso tutta la vegetazione, improvvisamente passa da un caldo torrido a un freddo molto forte anche per la stagione, no? E quindi stiamo vedendo i risultati. Stamattina a Roma c'era un vento pauroso, no? E in questo momento, quando sono venuto in radio, ce n'era un po' meno, ma insomma sono fenomeni estremamente importanti. Ecco, e quindi però contemporaneamente dobbiamo, quindi è un po' difficile associare questo caldo e questo improvviso gelo, però ci dovremo abituare, perché non è soltanto il discorso non ci sono più le mezze stagioni o sono cambiate le stagioni, il problema è grosso e che ci sono questi sbalzi fortissimi da una situazione calda a una fredda, e da una fredda poi a una situazione calda. Quella al passaggio al caldo l'abbiamo sperimentato addirittura a giugno, no? Cioè i primi giorni di giugno quest'anno faceva un caldo che non si era mai visto prima in termini di medie temporali. Bene, l'altro passaggio importante, l'altro dato è che c'è un rapporto fatto da Legambiente che è uscito in questi giorni e dice che in Italia ci sono 7 milioni e mezzo di persone su 60 che sono in zone minacciate da eventi idrogeologici, cioè che possono essere oggetto di alluvioni, di frane soprattutto, e di questi 250.000 sono abitanti di Roma, perché abbiamo in zona tutta una serie di problemi di cui non ci rendiamo conto, però sono calcolati in zone a rischio. Allora, anche questo, qui forse varrebbe la pena di spenderci qualche parola in più, perché il discorso è questo discorso idrogeologico. Noi dovremmo già aver fatto partire gli interventi per un riassetto dell'intero territorio, perché sennò fra 6 mesi ci troveremo ancora una volta, eccetera. E questo non è partito ancora. C'è una proposta che è uscita sui giornali di Nebbia, che dice dobbiamo fare un piano idrogeologico, dovremmo avere un ordine dei geologi, no? Insomma, bisognerebbe cambiare proprio la struttura amministrativa di questo campo, però ancora non è impensabile che succeda qualcosa nei prossimi mesi, dominati dall'attività o paraattività di tipo politico. Ok, allora prendiamoci una piccola pausa musicale per tornare tra qualche minuto dal vivo e ci ascoltiamo un pezzo dei Rage Against the Machine, Killing in the Name. We'll be right back. crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who die are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge and your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. E allora ritorniamo in diretta 06 49 17 50 il numero per intervenire. Ci hanno chiamato durante la pausa, si stavano chiedendo se questa fosse Radio Rock, ma forse hanno voluto fare un po' di sana ironia sulle nostre scelte musicali. Ritorniamo comunque a parlare di clima con Alberto. Allora, adesso volevo fornire un altro elemento importante, che è un documento che è stato presentato in connessione con la 23ª assemblea di tutti i popoli per il clima, eccetera, di cui parleremo dopo. Però mentre si svolgeva questa assemblea in sede ONU, un certo numero di scienziati ha deciso di lanciare un appello e di fare il punto sulla situazione del clima, cioè fare un tentativo di sollevare delle reazioni a vari livelli. Questo tentativo era già stato fatto, sempre per opera di scienziati di varie discipline, varie dottrine, però tutti quanti interessati al problema più ampio dell'ambiente, che interessa a tutti quanti e una molteplicità di discipline. Questo era avvenuto nel 1992, e però all'epoca gli scienziati erano 1700. Quest'anno sono 15.465. Quindi vuol dire che un numero estremamente alto degli scienziati esistenti nel mondo ha ritenuto opportuno firmare un unico documento che sottolineava l'andamento. Ci sono anche dei grafici su questo testo che sono molto semplici, cioè loro hanno ripreso i grafici che avevano presentato nel 92 e hanno proseguito l'andamento dei fenomeni che avevano. Ecco, sono tutti in rapida crescita, e quindi queste nove grafichette molto semplici, assolutamente un po' banali se volete, però sono terribili perché sono tutti coerenti e vanno tutti verso l'alto in direzione estremamente rapida. Questi scienziati chiedono una serie di cose, quindi non vorrei leggervele tutte perché sono troppe, però loro hanno cercato di fare un elenco in maniera che si potesse poi modificare il tutto, no? Cioè allora leggo qualcuno: privilegiare la messa in opera di scorte connesse tra loro, correttamente finanziate, correttamente gestite, destinate a progetti proteggere una parte significativa dei diversi habitat terrestri, aerei, acquatici, acqua di mare e acqua dolce. Cioè, in sostanza dicono, la forma può essere un po' enfatica se volete, però dicono: attenzione, le risorse si stanno distruggendo, si stanno diminuendo e quindi devono essere protette, no? E questo, quindi devono essere interrotti, insomma il messaggio è: devono essere interrotti tutti i meccanismi di danno ambientale che incidono sulle risorse essenziali, acqua e la parte acqua dolce, acqua di mare come esempio più importante. Il secondo dice: preservare i servizi resi dalla natura per mezzo degli ecosistemi, bloccando la conversione di foreste, praterie e altri habitat originali. Cioè, in sostanza, il pianeta ha raggiunto un certo equilibrio durante milioni di anni, deve essere da un lato preservato e dall'altro ricostituito per tutta la parte che abbiamo già distrutto. E quindi però loro sottolineano come secondo passaggio questo: restaurare su grande scala le comunità di piante endemiche, in particolare i paesaggi forestali. Quindi sottolineatura di questo obiettivo. Rendere di nuovo selvaggi spazi abitati da specie endemiche, in particolare da superpredatori, al fine di ristabilire dinamiche e processi ecologici. E sviluppare e adottare strumenti politici per lottare contro la defaunazione, cioè la distruzione della fauna, il bracconaggio, lo sfruttamento e il traffico delle specie minacciate. E qui si pensa, insomma, subito agli elefanti che vengono uccisi solo per poter utilizzare le zanne, eccetera, cioè tutte queste cose orrende che facciamo continuamente, che invece sono forse poco, come dire, poco seguite e assolutamente non contrastate abbastanza. Poi si continua qua tutto il regime alimentare, cioè chiedono l'adozione addirittura di un regime alimentare così a scala mondiale, nel senso che dovremmo rivedere tutta l'impostazione dell'alimentazione tenendo conto dei danni già arrecati ai terreni coltivati e quello che stiamo continuando a fare e via dicendo. Cioè, poi parla, ci sono vari obiettivi rispetto ai bambini, no? E via dicendo. Allora, quindi questo documento è piuttosto, come si può dire, un po' generico se si vuole, cioè abbastanza la stesura è abbastanza tranquilla, no? E però è la massa degli scienziati che dice: tutti d'accordo su questi punti fondamentali, che sono un po' il vademecum, diciamo, dell'ambientalista base in questo momento. E quindi però di questo, quindi questo sottolinea questo documento nella sua, insomma, senza essere un documento storico, però sottolinea la frattura che c'è tra il mondo scientifico e il mondo, diciamo, politico, e soprattutto tra il mondo scientifico e la popolazione. E questo è evidentemente uno dei problemi grossi di cui nessuno si sta realmente occupando, nel senso nessuno cerca di stabilire connessioni in maniera significativa e via dicendo, e quindi portare a conoscenza della popolazione certi problemi e dall'altra parte costringere le forze politiche a occuparsi di questi problemi. E quindi questo è il documento di cui vi volevo parlare. Oh, questo esiste, è stato diffuso già fin dall'inizio in varie lingue, però è stato immediatamente tradotto da Sbilanciamoci in italiano, quindi lo trovate su internet immediatamente. E la cosa importante, c'è una frase che questi scienziati dicono: presto sarà troppo tardi, che diciamo molto impressionante se uno ci pensa un attimo e fa mente locale che cosa significa. Presto sarà troppo tardi, cioè in sostanza questi scienziati sono profondamente coscienti dei tempi che stanno avendo i meccanismi di danno ambientale e il rischio sempre crescente, rapidamente crescente, che si arrivi a quei cosiddetti punti di non ritorno, cioè quando qualunque tentativo sarà inutile e che non riuscirà più a incidere su eventi che ormai hanno assunto dimensioni non più controllabili. Ecco, questa è la parte che mi sembrava importante, sempre per fare questo punto internazionale. Poi, e l'altro aspetto invece, questo è ancora più noioso se volete, però c'è stato in questo mese, alla fine del, diciamo durante il mese precedente, c'è stata la COP23, cioè in sostanza la COP è la conferenza delle parti, quindi significa una mega conferenza dove partecipano tutti i governi del pianeta, quindi più di 195 enti che si incontrano. La sede è l'ONU. E quindi comunque diciamo, se chi vuole vedere nell'agenda politica questi temi può far riferimento. Ah sì, è in sede ONU, questo è tutto quanto più che diffuso, diciamo, no? Il problema è poi bisogna, adesso poi parliamo di quello che si dovrebbe fare, se, però quello che è molto importante è che finalmente 2 anni fa l'ONU è riuscito a convocare questa mega assemblea, questa COP21, e durante questo periodo in cui si sono incontrati sono stati discorsi di conflitti, ci sono state una serie di questioni a Parigi, però alla fine sono riusciti a produrre un accordo internazionale di cui abbiamo parlato sia l'anno scorso che ne abbiamo già parlato varie volte. È solo che adesso queste COP dovrebbero, ce n'è già stata una numero 22, questa era la numero 23, in realtà dovrebbero essere concentrate sulla realizzazione di quell'accordo, cioè mentre finora quello di cui si dispone è un testo sul quale però tutti i paesi partecipanti si sono dichiarati d'accordo, non solo l'hanno firmato subito ma è stato poi anche ratificato durante tutto l'anno successivo, cioè nel 2016, diciamo a ondate successive i paesi hanno ratificato, quindi si sono espressi il presidente oppure si è espresso il Parlamento a seconda dei sistemi giuridico-istituzionali. E quindi adesso c'è un accordo che è funzionante. Di fronte a questo accordo funzionante c'è la posizione assunta da il presidente americano, il quale ha già detto che non vuole più partecipare. E quindi mentre durante questo mese di 2015, di mese di dicembre 2015, era apparso un ruolo, diciamo, degli Stati Uniti di Obama, c'era un ruolo molto importante, nel senso che Stati Uniti e Cina sono i due paesi maggiori inquinatori, quindi sono quelli responsabili della maggior parte, di una quota molto rilevante dei gas serra eccetera. E però mentre all'epoca erano i paesi che si erano impegnati, avevano svolto una specie di ruolo di battistrada, cioè coscienti dei danni che stavano arrecando, avevano insomma detto noi siamo qua, siamo disponibili, avevano addirittura durante e subito dopo la conferenza avevano assunto proprio degli impegni quantificati, no? In termini di anni, cioè entro i quali si impegnavano a fare delle cose. E però da un anno a questa parte invece gli Stati Uniti si stanno tirando indietro. E qui però si è verificato una cosa molto importante, cioè per motivi solamente giuridico burocratici, diciamo, nessun paese avendo firmato questo accordo può tirarsi indietro prima del 2022, se non ricordo male. Quindi formalmente non possono andare via, e però possono non partecipare, oppure possono dire delle cose e poi non impegnarsi per niente a realizzarle. Quindi la posizione è molto, cioè il problema esiste, è sulla carta e ci stanno tutti lavorando. Però è successo qualcosa all'interno degli Stati Uniti negli ultimissimi mesi. 13 centri di ricerca, i principali centri di ricerca degli Stati Uniti, hanno elaborato un rapporto sul clima e hanno detto che era assolutamente necessario, hanno confermato gli impegni presi dal Obama a Parigi per questo accordo, e hanno confermato il fatto che la situazione è ulteriormente peggiorata e che gli Stati Uniti devono fare questo. E una serie di stati si sono impegnati, qualunque cosa facesse il presidente, si sono impegnati a rispettare gli impegni presi a Parigi. Quindi questa cosa è molto importante. Questo testo è stato subito pubblicato da un giornale, il New York Times, se non ricordo male, e quindi insomma era noto pubblicamente questo documento, e la Casa Bianca lo ha approvato negli ultimi giorni. Quindi non si capisce bene, cioè non potevano fare altrimenti evidentemente, ed era molto difficile evidentemente per il presidente smentire tutto l'assetto scientifico del paese. Quindi lo hanno approvato, e però la posizione di sottrazione dagli impegni presi è ancora sul tavolo. Quindi c'è una specie, qualcosa di abbastanza nuovo, cioè abbastanza originale negli Stati Uniti. C'è una frattura interna proprio su questo tema, e quindi bisognerà vedere cosa succederà. Questo forse conferma anche che questi tavoli, che comunque sono uno spazio di discussione politica sicuramente interessante, hanno poi una valenza reale sulle cose limitata, e l'impressione che ne traggo è che le cose che si decidono in questi tavoli sono spesso insufficienti, e ciò nonostante non raccolgono comunque, no, il favore di determinati stati. E però mi fa pensare proprio che siano un po' svuotate anche di senso queste. È una delle tante prove che insomma c'è questo distacco, no? Sia dalla rappresentanza politica sia appunto dal mondo della scienza, come dicevamo prima. Però prima era un po' in generale. Per gli Stati Uniti c'è un testo preciso, non so se è chiaro, cioè, quindi che a questo punto è anche ufficiale. Va bene, allora ci prendiamo un'altra pausa musicale, proseguiamo con indie rock, quindi proseguiamo un po' l'ironia, rincariamo la dose con Your Spring, Come Out and Play. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, hey! Don't pay no mind. We're under 18 and we'll be doing it. Hey, hey, hey! Come on and play. them separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, hey, come out and play. E allora ritorniamo in diretta per l'ultimo quarto di Entropia Massima. Siamo stati raggiunti da un'altra chiamata durante la pausa, e quello che il compagno ci chiedeva era sostanzialmente, visto e considerato che i governi, le istituzioni procedono in maniera così lenta e inefficace, quale può essere un orizzonte progettuale alternativo a quello dei percorsi istituzionali da suggerire a chi lotta per i conflitti ambientali e in generale per i problemi connessi all'ambiente. Ma provo a rispondere subito a questa domanda, perché quello che adesso stavo per fare era cercare di dare una valutazione complessiva di quello che è successo in questa COP23 che è finita da qualche giorno, perché non ho ancora tutto il materiale, cioè ancora devo dire onestamente ho dei sospetti di che cosa sia successo. Però hanno elaborato 28 testi nei gruppi di lavoro, che quindi non ho ancora a disposizione, e in più ci sono i documenti ufficiali. Però bisogna valutarli tutti insieme attentamente, assumere un po' di informazioni anche dalle delegazioni che sono state presenti, eccetera. Questo lavoro ancora non sono stato in grado di farlo perché le fonti ancora non sono sufficienti. Però darò una mia valutazione, salvo poi ritornarci la prossima volta, avendo però fatto questa analisi approfondita. Sì, perché la prossima volta che ci vediamo con te saranno. Partiamo da questo. Saranno già usciti questi. Dovrebbero essere usciti. Spero di aver avuto il tempo di masticarli, diciamo, per dare un giudizio approfondito. Allora, la risposta è, come dire, assolutamente sì, cioè è assolutamente necessario, sarebbe assolutamente necessario fare degli interventi proprio, e l'unica strada che vedo è quella sulla quale in qualche modo ci si sta battendo, è quello dal basso, nel senso che ogni comunità, ogni ente locale dovrebbe, ha un sacco di compiti da fare, cioè se prendessero tutti insieme coscienza del fatto di dover intervenire, avere la responsabilità di qualunque degli interventi, ci sono molte delle competenze anche degli enti locali e quindi delle popolazioni, anche di paesi abbastanza piccoli, di cittadine di piccole dimensioni, hanno una serie di cose da fare immediatamente. Cioè, per esempio, qualunque ente locale o popolazione di una zona dovrebbe controllare che la cementificazione che è stata realizzata nel paese, piccolo o grande che sia, non abbia interrotto i flussi dell'acqua. Quindi l'acqua che va dentro i fiumi e l'acqua che va ad alimentare le falde, quindi sopra terra e sottoterra. E in ogni volta che si è inciso sulla naturale propensione delle acque di scorrere, bisognerebbe ripristinare la situazione esistente. Questo in alcuni paesi, in alcune città tipo Milano, dove hanno chiuso tutti i navigli, si sa dove si è interrotto, dove si sono fatte dighe, dove si sono cementificate proprio, e molte volte quando ci sono le alluvioni si vede subito che l'acqua non sa dove andare, nel senso che c'è un tappo da qualche parte esonda, nel senso che esce dal tracciato e copre un'area vastissima in maniera molto rapida e molto, molto possente, perché l'acqua è terribile quando si mette in moto, e viceversa bisognerebbe, come dire, rialzare gli argini, ma quelli naturali. La stessa cosa succede in posti tipo Monte, ne avevamo parlato una volta, non so, l'esempio è quello del Vesuvio. E non solo sono stati costruiti interi cittadine alle pendici del Vesuvio, eccetera, ma non si è tenuto minimamente conto dei torrenti di lava dove andrebbero, e ogni volta che c'è una pioggia un po' più forte, tra la lava solidificata e le ostruzioni che sono state realizzate costruendo delle case o delle strade trasversali rispetto ai flussi, si vede quello che succede. E quindi in caso di un'intensificazione di questi eventi, cioè di alluvioni di un certo livello, i danni dipendono moltissime volte da opere fisicamente realizzate negli ultimi anni. Dall'altra parte ci sono tutto, per esempio, per tutta la parte approvvigionamento dell'acqua, si sa perfettamente che quasi il 40% dell'acqua che circola negli acquedotti e captata, presa dalle dighe, eccetera, eccetera, circa il 40% si perde, sempre perché le condutture non sono state riparate, perché diciamo non si è tenuto conto di come, diciamo, dei difetti o dei limiti o della consumazione delle attrezzature. Quindi queste cose esistono in un terreno, in un territorio. Ogni sindaco sa che il suo territorio è attraversato da quell'acquedotto, oppure che quel fiume 10 anni fa è stato deviato per creare una zona urbana, no? Cioè sono tutte cose che si sanno, sono conosciute a livello locale. Ecco, l'importante però sarebbe stimolare e assumere delle responsabilità. Cioè ognuno dovrebbe capire che questo tipo di intervento è il più urgente, quello che da fare in tempi strettissimi, eccetera eccetera. Stesso discorso per esempio quando si parla di tutti questi ettari bruciati, non solo quest'anno ma anche negli anni precedenti, il discorso fondamentale è che bisognerebbe assolutamente rimboschire, riforestare intere zone, e ogni comune ha già un pezzo che dovrebbe riforestare. Quindi però non si può fare tutto questo isolatamente, bisognerebbe cominciare a lavorare per bacini, cioè che è la formula usata dai geografi, cioè in sostanza il lato da destro e sinistro di qualunque corso d'acqua, in maniera da seguire la logica dello scorrimento dell'acqua, le pendenze, i tempi, eccetera. Allora anche questo può essere fatto a livello locale, però in molti casi richiederebbe un coordinamento, un collegamento, una collaborazione tra enti locali della zona, e richiederebbe una popolazione che spinge e che tiene d'occhio i lavori, i tempi, eventuali soste stupide, eccetera eccetera. Quindi tutto questo è a portata di mano, se vogliamo, però sono tutte popolazioni che si sono abituate, io penso zone tipo la Sardegna eccetera, che si sono abituate ormai a questa lontananza dei centri decisionali, diciamo, corretti, cioè quelli che intervengono. E quindi c'è lo sforzo per far stimolare l'assunzione di responsabilità è molto forte. Quindi c'è un lavoro lungo da fare, purtroppo i tempi non ci sono. E quindi, insomma, ecco, allora, questo spero che, insomma, di aver centrato il problema. Allora, io adesso provo, perché c'è un problema. Durante questa riunione che è finita pochi giorni fa, è stata prodotta una massa di materiali, cioè ci sono ogni gruppo di lavoro, erano 28 gruppi di lavoro, ha preparato un rapporto, ci sono i documenti ufficiali, ci sono i documenti entrati nella conferenza, cioè organismi tecnici, per esempio tutti gli organismi tecnici internazionali dell'ONU, che hanno dato dei contributi. Quindi certe volte sono documenti massicci e non tutti sono in circolazione. Quindi io ancora devo essere molto onesto su questo, non sono in grado di dare un parere complessivo, eccetera. Vi dirò la mia preoccupazione, però prima vi dico qualcosa delle cose che sono state decise. Allora, tanto per capirci, i documenti disponibili parlano che devono essere rilanciare ed incrementare i contributi determinati a livello nazionale. Cioè, che vuol dire? Che prima dell'accordo di Parigi ogni paese aveva mandato un documento in cui prendeva delle decisioni annunciava delle decisioni. Purtroppo a un certo punto hanno fatto il conto di quello che gli impegni presi, eccetera, e il riscaldamento sarebbe arrivato intorno ai 5 gradi, nel senso che lasciati a se stessi con impegni volontari senza nessun obbligo, i singoli paesi fanno molto poco rispetto a quello che invece si dovrebbe fare per incidere sull'ammontare complessivo delle emissioni. Però ancora qua non si parla di obbligare i paesi e non vengono dati i tempi in cui questa roba deve essere formulata. Poi viene indicato un qualcosa, un obiettivo, una specie di obiettivo interno per raggiungere, ve lo cito testualmente, per raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni dei gas clima alteranti, cioè che modificano il clima, e gli assorbimenti di gas serra. E raggiungere l'equilibrio significa ritornare alla situazione pre-industriale, cioè quella di 250 anni fa, che va bene, cioè è chiaro che dobbiamo fare quello, però non è un obiettivo quantificato, cioè non si dice è quello che si dovrebbe fare, cioè non si può contraddire una dizione di questo genere. Il problema è che ognuno dovrebbe dire quella è la parte che fa, finché tutti non l'hanno fatto e la somma deve essere il risultato deve essere l'equilibrio, è un obiettivo vago, no? Esatto. Estremamente vago. Poi ci sono delle azioni di mitigazione che sono pre-2020, cioè pre l'anno 2020, cioè nel 18-19-20, cioè nei prossimi 3 anni ci dovrebbero essere delle azioni, e però non vengono indicate. Ecco, allora siamo più o meno, stiamo a questo livello. C'è un documento che dovrebbe essere più interessante sul carbone, che è stato sottoscritto da 25 paesi. Ecco, quello io finché non l'ho letto tutto non posso dare una valutazione. La mia sensazione è che ancora con questa COP23 stiamo ancora cercando di mettere in moto la macchina. Ecco. Bene, allora ci fermiamo qui per oggi, ma riprenderemo sicuramente il tema nelle prossime puntate di Economia e Ambiente. Un saluto a tutti e a tutte, un abbraccio.